mi risveglio con te, stella del mattino, nel momento in cui buio fa spazio alla luce. Guardo i tuoi occhi pieni d'amore, riempio di baci le tue meravigliose labbra. Avevamo dormito un po' a malincuore, dopo quasi una notte di appassionate danze. Ora i tuoi baci sono ancora più dolci, il nostro abbraccio sprigiona tenerezza. Presto mi alzo, l'acqua riscaldo il tè, ti preparo arancia e cannella, amore la poni mondo profuma di te. Forza energia scorrono di noi, apri la porta, usciamo sul mondo, sorridi, che belli insieme a te. Tu mi hai preso con te, stella del meriggio, e mi hai trascinato in alto su nel cielo. L'arcobaleno era vicino, noi volavamo più in alto delle nuvole. Poi mi hai detto che era l'ora di tornare, la tristezza mi prese, dovevo atterrare. Con la mia mano intrecciata alla tua, piano scendevo, ma eravamo ancora insieme. Presto mi alzo, l'acqua riscaldo, canto saltello, mi metto al lavoro, preparo una pasta al pomodoro. Intanto cantiamo la nostra canzone, cibo, amore, condivisione, pronti insieme a ripartire. Tu mi accogli da te, stella della sera, dopo un lungo cammino di impegno e di fatica. Apri la porta della tua casa, entro e svaniscono tutte le paure. Noi ci siamo trovati, donati l'uno all'altro, e ci siamo amati come mai era successo. Fuoco e calore, fulmini e nubi, narici e lari, benedite il Signore. Presto ti alzi la mano, mi prendi gli occhi, dardeggi felice, sorridi, mi introduci nel tuo giardino di delizie. Musica, suoni, tenera e forte, dolce e paziente, apri le porte, la magica danza tra noi riprende già. Tu mi tieni con te, stella della notte, e mi mostri con gioia la strada per le stelle. Il mio cuore canta d'amore, apro le braccia, amica della mia anima. Io mi stringo a te, stella della notte, il tuo braccio mi cinge, la tua destra il mio capo sostiene. Quieto abbandono ogni paura, di pace risplendo e piano mi addormento. Somewhere.